Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vertenza Varsila, irritazione e incredulità da parte della giunta regionale sul giallo dell'offerta di una società lombarda. Il gruppo finlandese conferma, l'azienda interessata smentisce. Il futuro dell'Electrolux di Porcia, tra rassicurazione e timori di una vendita ai cinesi. Intanto il calo di volumi e il ricorso alla cassa integrazione allarmano i sindacati, pronti a nuove mobilitazioni. Un anno di chiusura per la Galleria di Montebello a Trieste, importante snodo della viabilità cittadina. I rinvii della sua riapertura e i conseguenti disagi per i cittadini al centro di un'assemblea organizzata davanti all'ingresso dalla CGIL e dalle opposizioni. Dedicato a Don Luigi di Piazza, scomparso un anno fa, l'Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli. Un riconoscimento al fondatore del Centro Balducci di Zugliano anche per il suo impegno nel mondo giovanile. Terapie sempre più mirate per gli ammalati di leucemia in Friuli Venezia Giulia, circa 400 i nuovi casi all'anno, il punto in un seminario a Trieste. Lo chef friulano Emanuele Scarello interverrà a Udine alla riapertura dell'orto botanico per premiare la migliore insalata tra quelle preparate con piante coltivate nello spazio verde di via Bariglaria. Tra le sue coltivazioni medicamentose anche malve e borragini, utile nel trattamento dei disturbi respiratori. Ancora una buona giornata da Elisabetta Zaccolo e da Maria Spezia in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. In apertura torniamo ad occuparci della vertenza Varsila con il botta e risposta tra l'azienda lombarda che smentisce di essersi fatta avanti per lo stabilimento triestino e il gruppo finlandese che insiste, l'offerta c'è. Un aggiornamento e le reazioni politiche in questo servizio che Daniele Lettic ci ha raggiunto in studio. Siamo tutti stupiti e increduli, è questa la reazione della giunta regionale espressa dall'assessore al lavoro Alessia Rosolen all'indomani della notizia secondo cui una delle proposte per la reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra presentate da Varsila al tavolo del ministero, quella di IMR Industries, in realtà non sarebbe mai arrivata. Notizia che ha destato irritazione anche nel presidente Fedriga, che però preferisce per ora non commentare la vicenda, mentre il suo portavoce afferma che se fosse vero sarebbe molto grave. Al momento, continua Rosolen, non ci sono stati contatti tra i vertici della regione e il gruppo finlandese. Ci troviamo in mezzo a due versioni opposte, dice Rosolen, quella di IMR e quella di Varsila, e dovrebbe essere proprio quest'ultima a smentire. Spetta a loro l'onere della prova, a noi invece per ora non spetta quella del giudizio finché le cose non saranno più chiare. Certamente è un fatto grave, dice ancora l'assessore, che un'azienda che sembrava esclusa ora avrebbe presentato un piano a sua insaputa e un'altra, ovvero l'austriaca Christoph, che sembrava essere in ballo, all'improvviso si è scomparsa dai radar. Contattata, Varsila da parte sua conferma ancora una volta di aver effettivamente ricevuto i piani presentati al tavolo, quello di IMR che produce plastiche per il settore delle automobili e quello della startup che realizza elettrolizzatori H2 Energy, offerte che sono state valutate come inconsistenti da tutte le controparti, con i sindacati che hanno annunciato uno sciopero per lunedì. Quanto agli austriaci di Christoph, Varsila, dice il portavoce dell'azienda, non intende commentare le scelte di altre imprese. Il prossimo confronto tra Varsila, sindacati e istituzioni è previsto per il 29 maggio, quando l'azienda incontrerà i rappresentanti dei lavoratori per discutere il piano industriale per le attività che rimangono e che, nelle intenzioni del gruppo, continueranno a impiegare centinaia di addetti. Ringraziamo Andrea Lettici per averci raggiunto in studio e proseguiamo ancora con i temi dell'economia e con la produzione ai minimi storici alla Electrolux di Porcia. La cassa integrazione e i giorni di fermo produttivo andranno avanti ancora a giugno, sempre più preoccupati i sindacati. Le rassicurazioni arrivate da più parti, da ultimo l'incontro dell'assessore regionale Bini con i vertici aziendali, non sono sufficienti a placare le preoccupazioni per il futuro dello stabilimento Electrolux di Porcia. C'è bisogno di fare chiarezza una volta per tutte, confermare che non c'è intenzione da parte della proprietà di vendere alla multinazionale Midea, dichiara Gianni Piccin della CISL. L'invito alla politica è di appurare la situazione reale, non sottovalutare l'allarme dei sindacati fidandosi solo delle rassicurazioni della proprietà. Alle voci di una possibile cessione di Electrolux al colosso cinese si aggiunge il significativo calo di volumi nello stabilimento friulano. Nel mese di maggio, in cui si è ricorso alla cassa integrazione praticamente ogni giorno, altre chiusure della fabbrica sono previste fino a mercoledì e poi ancora lunedì 29, le vendite di elettrodomestici sono precipitate, un calo spaventoso molto al di sotto della soglia di sopravvivenza della fabbrica, commenta Walter Zoccolan dell'RSU. secondo cui ci si potrebbe trovare di fronte a decisioni ben più gravi da parte della multinazionale e, come nel 2014, dice, potremmo trovarci a dover occupare la fabbrica per impedire scelte drastiche. Nel coordinamento nazionale in programma il 30 maggio i sindacati chiedono di conoscere le prospettive e soprattutto si aspettano risposte concrete sulla ipotizzata vendita ai cinesi di Midea. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Ma su Electrolux sentiamo il commento del ministro pordenonese per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Mi sento di rassicurare innanzitutto i dipendenti, perché il Ministero ha fatto i suoi accertamenti, non risulta nessuna richiesta formale da parte delle aziende cinesi di acquistare Electrolux. È chiaro che nel caso ci fosse, ma al momento non ci sono evidenze, il governo metterà in campo tutti gli strumenti che ha a disposizione per difendere la produzione e i posti di lavoro. Da un anno la Galleria di Montebello a Trieste è chiusa per lavori. L'ultima apertura annunciata per il 7 aprile è stata infatti posticipata al 15 giugno. Questa mattina si è tenuta un'assemblea davanti a quello che è il principale punto di raccordo tra la periferia e il centro città, che è stata promossa da CGL Trieste, PD Trieste, Adesso Trieste, Lista Punto Franco, Movimento 5 Stelle Trieste e Rifondazione Comunista. La luce in fondo al tunnel forse questa volta si vede, perché se non proprio il 15 giugno come promesso dall'ultimo slittamento, entro l'inizio dell'estate i lavori potrebbero essere completati. Ma la Galleria di Montebello, che unisce la periferia sud con il centro di Trieste, è chiusa esattamente da un anno, a cui vanno aggiunti 3 mesi del 2021. La ristrutturazione da cronoprogramma che l'azienda appaltatrice aveva dato al comune sarebbe dovuta durare 40 giorni. I continui rinvii, dovuti non solo alle difficoltà di reperimento di materiali, hanno tagliato in due la città e in spettito i cittadini che, assieme all'opposizione della giunta di piazza, hanno manifestato il proprio disappunto. Quali sono i disagi maggiori per chi abita qua? È che bisogna fare tutto il giro per San Giacomo. E io per esempio ho il medico in via Baiamonti, invece di fare la galleria a girare a destra sono arrivato, devo fare il giro per le alte. Tanto traffico, tanto smog e tante sirene che non hanno spazio neanche per passare, perché il traffico è sempre pieno. Vedere una croce rossa che non riesce a raggiungere in tempo dove devi intervenire è una cosa tristissima. Secondo la CGL, tra gli organizzatori della manifestazione, il comune dovrà rivalersi sul consorzio stabile, la ditta beneventana che si era assicurata l'appalto con il 18% di ribasso e con tempistiche definite impossibili da mantenere. Sono previste delle penali al momento della sottoscrizione dei contratti, per cui bisogna esercitare, in un caso peraltro palese come questo di inadempienza da parte dell'impresa, e applicare le penali previste, e poi la proposta naturalmente è quella che l'introito previsto dalle penali venga naturalmente utilizzato per chi ha subito i maggiori disagi. Per la giunta non ci sono posizioni ufficiali, ma c'è ottimismo sulla riapertura a breve. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo alla cronaca. Un uomo di 49 anni di Maiano è stato soccorso questa mattina dalle squadre di terra della stazione di Forni a Voltri del soccorso alpino e speleologico, assieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale, per le conseguenze di un infortunio accaduto sul Col Gentile. L'escursionista era assieme ad altri compagni sulla cresta del monte in cerca di radicchio di montagna quando, a quota 1900 metri, si è fratturato una caviglia. La chiamata è arrivata alla SORES poco dopo le 6:30, l'uomo, che era dolorante e infreddolito, è stato coperto con un telo termico e stabilizzato per essere condotto in volo all'ospedale di Tolmezzo. Le operazioni di soccorso sono durate quasi 3 ore. Bilancio lusinghiero per il nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Udine, che ha operato con competenza territoriale sul Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Nel 2022 l'azione preventiva si è concretizzata in 20 sopralluoghi per l'accertamento dello stato di sicurezza di musei, biblioteche, archivi, 31 controlli ad aree archeologiche e marine terrestri, 103 verifiche in aree con vincoli paesaggistici e monumentali, 101 controlli ad esercizi commerciali e 17 controlli a mercati e fiere antiquariali. Di particolare interesse i sorvoli in elicottero per il contrasto delle ricerche clandestine di oggetti di valore, di parti delle vestigia della Grande Guerra e reperti archeologici sull'Adamello e sulla Marmolada in Trentino Alto Adige, e quelli su Alpi Carniche, su Pal Grande e Pal Piccolo in Friuli Venezia Giulia. Il lavoro condotto in sinergia con la Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio regionale e il Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine ha portato anche al rinvenimento di un'imbarcazione di epoca romana mai prima censita. Come riferito dagli esperti della Soprintendenza, si tratta di una scoperta di eccezionale importanza storica per l'area dell'Alto Adriatico. L'azione repressiva ha poi portato alla denuncia in stato di libertà di 39 persone. Nel corso delle 11 perquisizioni locali eseguite sono stati sequestrati più di 8.000 reperti, di cui 807 erano beni antiquariali, archivistici e librari, più di 7.000 paleontologici e 156 archeologici. I falsi sequestrati sono stati 9, quasi tutti afferenti all'arte pittorica contemporanea. La stagione irrigua del Pordenonese è pronta a decollare a pieno regime senza alcuna restrizione nelle forniture d'acqua all'agricoltura. Solo in caso di una nuova recrudescenza della siccità, il consorzio di bonifica Celina Meduna attiverà riduzioni agli orari di bagnatura secondo uno schema già comunicato ai soci. In vista dell'avvio delle irrigazioni, previste ufficialmente per il 1° di giugno, ad ogni consorziato è stato infatti distribuito un foglio bianco con gli orari ordinari di bagnatura. La decisione di pompare normalmente acqua è stata assunta dalla deputazione, cioè l'organo che amministra il consorzio e di cui fanno parte anche sindaci e rappresentanti del territorio. La scelta è stata dettata dalle attuali condizioni meteo che hanno portato a un notevole aumento delle capacità di invaso nei bacini montani e di portata affluente dei due principali fiumi. Barcis è infatti al colmo delle disponibilità con più di 10 milioni di metri cubi, mentre Rabedis ne sono trattenuti oltre 11 milioni. I tre impianti della Valtremontina invece contengono complessivamente 34 milioni di metri cubi. Dopo un 2022 da incubo riusciamo a respirare, ha commentato al proposito il presidente dell'ente Walter Colussi. Diamo uno sguardo al meteo, il cielo è da nuvoloso a variabile sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 21 gradi, a Udine 22,5, a Gorizia 22, a Pordenone 20, a Tolmezzo 12,5 gradi, a Forni di Sopra e Sappada 13,5, a Tarvisio 12, a Piancavallo 11, sul Monte Zoncolan 7 gradi, sul Monte Lussari 5, a Lignano e a Grado 21 gradi. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi pomeriggio: cielo nuvoloso in montagna, nuvolosità variabile su pianura e costa, sarà possibile qualche debole pioggia sparso, qualche locale rovescio, più probabile in montagna ma non escluso anche in pianura, soffierà bora a Modenata, in pianura e sulla costa anche sostenuta sulle zone orientali a Trieste. Per domani prevalenza di bel tempo con cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio sarà possibile un po' più di variabilità sui monti e alta pianura e non è escluso qualche locale rovescio. Anche temporalesco, soffierà bora o vento da nord moderato in pianura e sulla costa, bora anche sostenuta a Trieste, specie nella prima parte della giornata. Da oggi l'Istituto Comprensivo di Pozzolo del Friuli è intitolato a Don Pierluigi di Piazza, uomo di pace e di dialogo, fondatore del Centro Balducci di Zuliano. Questa mattina la cerimonia ufficiale. Rendere omaggio ad un uomo di profonda cultura, docente, scrittore, giornalista, educatore, che ha dato una forte impronta al territorio di riferimento dell'Istituto Comprensivo di Pozzolo del Friuli nel segno dell'accoglienza, del dialogo, della legalità, della giustizia, della solidarietà, della promozione dei diritti umani, della non violenza, della conversione ecologica. Questa è la motivazione che ha spinto il Collegio dei Docenti e tutto l'Istituto a pochi giorni dalla scomparsa di Don Pierluigi di Piazza a fare domanda per l'intitolazione. Saranno 8 i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo ad avere una targa con la foto del sacerdote di Zuliano e una citazione estratta dai suoi libri. Elena Venturini, dirigente scolastica. Don Pierluigi è una persona che aveva lavorato moltissimo per il mondo della scuola e ci aveva supportato in lunghi percorsi e lunghi progetti e quindi da subito all'unanimità è nato questo desiderio non solo di volerlo ricordare, ma di voler mantenere vivo il suo pensiero e renderlo agito in tutti i percorsi che nella scuola andiamo ad attivare in modo tale che i suoi principi di solidarietà, pace, accoglienza vengano mantenuti e vengano insegnati ai nostri alunni. Una giornata di festa con tanti ragazzi dell'istituto che si sono esibiti ma anche tanti occhi lucidi quando il fratello e Don Paolo Iannaccone, presidente del Centro Balducci, hanno ricordato Don Pierluigi. Vito di Piazza. È un riconoscimento a tutto il lavoro che mio fratello Pierluigi ha fatto negli anni nelle scuole. Lo scopo era di creare delle coscienze coraggiose nei giovani, libere, indipendenti e responsabili. E questo è il messaggio che anche oggi deve partire qui dalla scuola di Pozzuolo per diffondersi anche alle altre scuole in Friuli, che possono continuare nello spirito e negli insegnamenti di Pierluigi Di Piazza. Pozzuolo del Friuli, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La ricerca su leucemie, linfomi e mieloma registra traguardi sempre più notevoli che si traducono in nuove mirate cure per i pazienti. Il punto oggi in un seminario organizzato dall'Associazione Leucemie. Una malattia oncologica con tantissime facce, con una diversità dagli altri tumori sul fronte del trattamento. Per le leucemie la chiave, più che nella prevenzione, è nella ricerca. E la ricerca scientifica ha messo a disposizione medicinali non più basati sulla chemioterapia, ma sull'individuazione del bersaglio da colpire, sono i farmaci target, e sulla sollecitazione mirata del sistema immunitario. Il tasso di guarigione in alcuni casi è alto, in altri la ricerca, appunto, sta migliorando i risultati delle terapie. Al seminario dell'AIL, l'Associazione contro le leucemie, organizzato a Trieste, fra gli altri l'intervento del professor Francesco Zaia, direttore dell'ematologia di Asugi. Parliamo di un gruppo di patologie molto eterogenee, per alcune rasenta il 90%, per altre è inferiore, però diciamo che oggi soprattutto alla disponibilità di nuove opportunità terapeutiche, di nuovi trattamenti, sicuramente la possibilità di cura e di guarigione è nettamente migliorata rispetto al passato. I linfomi rappresentano il 4% delle neoplasie maligne e in Friuli Venezia Giulia si registrano fra i 350 e i 400 nuovi casi l'anno, diffusi in tutte le fasce d'età, anche se maggiormente fra adulti e anziani. Fra le battaglie che l'AIL sta combattendo, quella per il diritto all'oblio, quando la patologia è superata e quando è anche trascorso il previsto periodo di osservazione. Giuseppe Gioffrè, AIL di Udine e Gorizia. In Italia chi accede a una banca per avere un mutuo o un'assicurazione per un'assicurazione sulla vita o procede alla richiesta di un'adozione, a un certo punto si sente fare la domanda se ha avuto delle malattie pregresse importanti. E dichiarare di avere avuto una malattia oncoematologica non consente talvolta, se non nella quasi totalità dei casi, di accedere a un mutuo, a un'assicurazione sulla vita o di avere un bambino adottato. Tanti paesi europei hanno già una legge, da noi di legislatura in legislatura si susseguono proposte che, nonostante il consenso trasversale di tutti i partiti, non arrivano mai all'approvazione. AIL aiuta i pazienti meno abbienti, sostiene la ricerca e segue anche l'aspetto del supporto psicologico, come dice Tiziana Benussi, AIL Trieste. Paghiamo una psicologa che è molto utile, che va in reparto regolarmente, che parla con i pazienti e con i familiari dei pazienti. Trieste, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. L'associazione Luca Coscioni ha organizzato per oggi una raccolta firme sulla proposta di legge regionale Liberi Subito, dedicata al suicidio assistito, che coinvolge alcune regioni italiane, tra cui il Friuli Venezia Giulia. Sul territorio sono state già raccolte 2.000 firme in circa 2 mesi, dopo il lancio a marzo della campagna, che ha come obiettivo il raggiungimento di 8.000 firme per presentare una proposta normativa di attuazione per accedere a una morte volontaria attraverso l'autosomministrazione del farmaco letale nel rispetto della sentenza Cappato. Sarà lo chef friulano Emanuele Scarello a premiare la migliore insalata tra quelle preparate con le piante coltivate nell'orto botanico di Udine, spazio oggi in riapertura presso l'area verde di via Bariglari alle 17. Nella sua superficie sono ospitate 3 collezioni di una 60 di piante di tipo alimentare, velenoso e medicinale. A Mario Canciani, presidente dell'Associazione Allergie e Pneumopatia Infantile Alpi, abbiamo chiesto quale sia l'importanza dell'orto per l'associazione. Per far conoscere una 70 di piante è dedicata alle malattie principalmente respiratorie, quindi come si può curare con le erbe naturali. Quali sono alcune delle piante più importanti? Prima di tutto l'echinacea, poi la malva, poi la voragine, poi la calendula, poi l'edera, poi la xilene. La viola, sono tutte piante che hanno delle sostanze che servono a diminuire la secrezione bronchiale. In che modo vengono utilizzate? Nel nostro orto chi le coltiva può prendersi dei germogli, eccetera. Possono venire utilizzate sia sotto forma di infusi, sia sotto forma di aerosol, quindi messe dentro delle soluzioni, sia sciolte in, per esempio, alcol, e dopo l'estratto viene bevuto nei periodi, per esempio, quando uno ha la tosse, eccetera, in inverno. Questa non è omeopatia, questa è fitoterapia, cioè sono tutte piante di cui è dimostrato scientificamente l'effetto farmacologico. Gran finale al Teatro Verdi di Pordenone per il progetto di residenza dei 120 musicisti appartenenti alla più famosa e celebrata orchestra giovanile al mondo, la Gustav Mahler Jugend Orchester. Il concerto è stato diretto dal maestro Daniele Gatti. Da un lato l'ottimismo e la brillantezza sonora della prima sinfonia, ancora con i piedi ben piantati nella tradizione ottocentesca, dall'altro lo smarrimento e le dissonanze della decima, incompiuta con i suoi tremendi accordi a piena orchestra che sono il Novecento. I due estremi della produzione sinfonica di Gustav Mahler nel concerto che ha chiuso al Verdi di Pordenone la residenza artistica della formazione sinfonica giovanile che porta il nome di questo compositore. A guidare gli oltre 100 musicisti sotto i 26 anni, una sorta di vivaio per le più importanti orchestre del mondo, un maestro di fama internazionale come Daniele Gatti. Quello tra la Gustav Mahler Jugendorchester e Pordenone è un binomio consolidato. Ormai da 8 anni la formazione fondata da Claudio Abbado e patrocinata dal Consiglio d'Europa sceglie il Friuli occidentale per preparare le sue tournée. Il concerto di ieri sera, accolto in modo entusiastico da un teatro pieno di pubblico, è il primo di una serie che porterà l'orchestra anche al Musikverein di Vienna, al Palazzo della Cultura di Dresda, al Gewandhaus di Lipsia e alla Scala di Milano. I giovani fuori classe torneranno poi a Pordenone per preparare un altro ciclo di concerti nel prossimo mese di agosto. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora del 42esimo premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei. Il premio all'opera d'autore 2023 è stato assegnato a Marco Bellocchio. Il suo film Esterno Notte ha appena vinto 2 Davide Donatello come miglior regia e miglior attore protagonista, cioè Fabrizio Giffuni, già al cinema e in televisione nel 2022 e trasmesso nuovamente in televisione pochi giorni fa in ricordo dell'anniversario della morte di Aldo Moro. L'ultimo film di Bellocchio, Rapito, sulla storia di Edgardo Mortara, in corso a Cannes il prossimo 25 maggio. Passiamo ora alle nostre rubriche. Domani su Rai 3, come ogni domenica, andrà in onda la nostra rubrica diffusione nazionale Est-Ovest. Sentiamone un'anticipazione. Le imprese italiane in Albania, gli investimenti indotti dagli immigrati che ritornano nel paese delle aquile. In Slovacchia le donne profughe dall'Ucraina hanno creato una rete che aiuta i militari impegnati al fronte. A Plovdiv, l'antica Filippopoli, gli archeologi e i restauratori hanno portato alla luce i mosaici della basilica paleocristiana. A Budapest il potere di Viktor Orban si specchia anche nell'architettura, il caso della veniristica Casa della Musica. Il passato sovietico della Moldavia e l'intreccio con il presente raccontati dallo scrittore Julian Chokan. Tutto questo è Est-Ovest, domenica alle 11 su Rai 3. E sempre domani, ma sul versante radiofonico, in onda dopo il GR, Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani è in apertura un viaggio all'acquario di Aris di Rivignano, gestito dall'ente tutela patrimonio ittico della regione. A seguire, nell'angolo che dedichiamo all'agricoltura bio, è tempo di pensare ai sovesci estivi. Nella rubrica del vino, una guida al giusto momento di raccolta dell'uva. E ancora continua il viaggio tra i grandi alberi delle nostre foreste, nell'orto ma anche in vaso sul balcone. balcone di casa i consigli per coltivare le fragole. Nella rubrica della gastronomia, due ricette con le albicocche, una per accompagnare carne affettati, una tradizionalmente dolce. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e proverbio friulano della settimana. Appuntamento a domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. Lo sport basket di Serie 2 questa sera alle 20 a Cividale, Gesteco Apo Udine, partita che rischia di essere la sfida decisiva di questo derby tutto friulano di playoff. Si riparte dall'1-1 dopo i primi due confronti giocati al Carnera. Cividale, ricordiamo, ha vinto la prima gara, Udine la seconda. Per la pallanuoto maschile, partita in casa per Trieste che alla Bruno Bianchi affronterà la Rani Nantes Savona per la gara 1 di finale playoff, quinto posto della Serie 1. Fischio d'inizio alle 18.45. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, per la parte tecnica in regia Giuliano Pecorari e Bruno Montevecchi, da parte di Maria Spezia ed Elisabetta Zaccolo. L'augurio di una buona giornata e vi ringrazio ancora per l'attenzione. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.